Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Da quanto ho visto in TV, non mi sembra possibile il rischio, paventato da alcuni, di un uso pedopornografico delle immagini provenienti dai body scanner. Nemmeno per gli adolescenti con gli ormoni particolarmente attivi, che si agitano anche con un covone di fieno. Per questo scopo sono molto più indicate le fotografie in spiaggia, nelle sagre, negli spettacoli e le migliaia di telecamere distribuite in ogni dove. Anche la questione delle schedature fa ridere. Nemmeno il dubbio sulla salute è sostenibile. Siamo alle solite. No TAV, no MOSE, no Dalmolin, no antenne, no inceneritori, no nucleare. Chi fa, sbaglia. Chi non fa, sbaglia due volte, recitava un vecchio proverbio. Carlo Vicenza. Sono davvero sconcertato di come sia facile prendere in giro la gente. Si vogliono spendere circa 70 milioni di euro, calcolo fatto considerando i 38 aeroporti italiani con una media di 10 macchine ad aeroporto, per cosa? Abbiamo speso miliardi nel mondo per gli sniffer per le scarpe, per un singolo episodio. Tra l'altro mai più ripetuto, nonostante siano utilizzati su un passeggero ogni 300 circa. Forse per le donne coi tacchi? Perché non spendere quei soldi per macchinari medicali? Scommetto che salverebbero più vite dei body scanner. E poi, siamo seri. Questi attentati a cosa servono? A fare il maggior numero possibile di vittime o a creare paura? Ma allora perché non fare come hanno fatto a Madrid o a Londra? Pensate a un ordigno con esplosivo meno raffinato sul binario dell'alta velocità. Io credo che dobbiamo semplicemente convivere con questa situazione e investire soldi dove è più utile per la società. Andrea. Tra le possibili violazioni della privacy perpetrata dagli scanner aeroportuali, vorrei aggiungere quello che riguarda le persone transessuali. Riuscite ad immaginare quale disagio possa creare a chi, non potendo viaggiare in altro modo, si deve sottoporre a questo strumento ben sapendo che la sua intimità ed il suo segreto verranno violati? Perché, come credo tutti sappiano, per rettificare i caratteri sessuali è necessario effettuare delle operazioni chirurgiche. E molte persone transessuali devono attendere anche anni per potersi sottoporre a queste operazioni e quindi di fatto per molto tempo, pur avendo un corpo femminile, hanno ancora il pene. È chiaro che si tratta di una minoranza, altrimenti avrebbero già visti riconosciuti i propri diritti, ma sempre persone sono. Linda. Caro direttore, non voglio fare il disfattista o procurare allarmismi, ma non sopporto come politici, media e quotidiani affrontano questa piaga del terrorismo. I cronisti si affannano nel precisare che quello di Natale è stato un mancato attentato. Ogni volta che parlano o scrivono di questa notizia, ripetono ossessivamente le parole «attentato fallito». Ma dove è fallito? Certamente, e fortunatamente, non ha fatto morti. Ma questi terroristi attentatori, che siano 100, 10 o 1, i morti non li contano. Credo che a loro il numero di morti non interessi nemmeno. Il loro scopo è metterci in equilibrio su un filo di terrore. Ed è uno scopo che mi pare sia stato raggiunto. Mettere body scanner, radar, infrarossi, cani, satelliti spia, eccetera, può servire a rassicurarci fino al prossimo attentato o tentato attentato. Mandare eserciti a sconquassare paesi riuscendo puntualmente ad affamare i popoli e ingrassare i ricostruttori ci rende veramente più sicuri. Per fare un esempio, qualche mese fa, quando ha iniziato a diffondersi l'influenza A, siamo forse stati rassicurati dal sapere che era pronto un vaccino che avrebbe potuto combatterla? Ci ha forse resi più sereni sentire nelle varie trasmissioni scientifiche i vari dottori, scienziati e ricercatori che ci spiegavano con chiarezza e fedeltà la vera entità del problema e i piccoli accorgimenti da tenere? Non voglio mettere terrorismo e influenza sullo stesso piano, ma sono convinto che se sentissi o vedessi i paesi interessati parlarsi e soprattutto ascoltarsi, mi sentirei molto più sicuro che l'essere trattato con il vaccino della guerra preventiva o del body scanner. Moreno, Bologna. Gli ultimi anni della vita politica italiana sono stati caratterizzati dal crescente fenomeno dei magistrati che abbandonano la toga per andare a infoltire la fila dei politici. La circostanza in sé sarebbe del tutto normale, posto che ogni cittadino ha il sacrosanto diritto di occuparsi della gestione della res pubblica. Quella che appare un'anomalia inaccettabile è che buona parte di questi magistrati che si concedono alla politica sono assurti agli onori della cronaca e diventati famosi grazie a inchieste scottanti che hanno coinvolto personaggi pubblici. Rilasciando interviste, lasciandosi fotografare alla stregua di star della TV, finiscono per diventare anch'essi personaggi pubblici e famosi, sì da essere indotti ad abbandonare la toga, divenuta ormai troppo stretta, e scendere in politica approfittando della popolarità nel frattempo acquisita. Naturalmente questi magistrati trovano subito la compagine politica pronta ad accoglierli tra le sue braccia, felice di offrirgli una comoda poltrona dalla quale, animati dallo spirito giustizialista, poter energicamente attaccare gli avversari politici, magari sfruttando quelle informazioni, fondate o meno che siano, delle quali sono entrati in possesso grazie alle inchieste svolte e al ruolo rivestito fino a qualche giorno prima. Queste figure ibride di magistrati politici con la toga ancora cucita addosso e il codice penale scolpito nell'animo trovano navigati conduttori televisivi pronti a ospitarli nei loro talk show, ove in una crescente enfasi di giustizialismo e in studi televisivi trasformati in improvvisate aule giudiziarie, vengono celebrati processi sommari ed emessi irrevocabili verdetti di condanna, in spregio ai più elementari diritti di difesa. Il fenomeno della notorietà dei PM è stato in parte arginato grazie alla recente legge in base alla quale solo il procuratore capo può rilasciare interviste alla stampa in ordine alle inchieste in corso. Ma l'eclatante caso De Magistris, catapultato da un giorno all'altro dagli oberati uffici giudiziari agli alti scranni del Parlamento europeo, dimostra che il problema non è ancora stato risolto. Al riguardo, a nostro modesto avviso, un paio di regole potrebbero contribuire ad arginare, se non a eliminare, tale anomalia. Prima regola. Si dovrebbero mantenere anonime le inchieste, divulgando solo la Procura della Repubblica titolare dell'indagine, come organo istituzionalmente preposto, essendo del tutto irrilevante, se non per l'indagato e il suo difensore, la persona fisica del magistrato titolare del procedimento, che rimarrebbe, come è giusto che sia, ignoto alla stampa e conseguentemente al grande pubblico. Seconda regola. Si potrebbe stabilire un lasso di tempo, per esempio 2-3 anni, una sorta di spatium purgandi, dal giorno dell'abbandono del ruolo della magistratura al giorno in cui sia possibile candidarsi per qualsiasi elezione politica o amministrativa o comunque assumere incarichi di nomina politica. Con questi accorgimenti, i magistrati probabilmente sarebbero disincentivati a seguire pervicacemente indagini nei confronti di personaggi pubblici al solo fine di assurgere agli onori della cronaca, sgombrando così il campo da qualsiasi sospetto di faziosità politica, di interesse personale, e al contempo si eviterebbe la spettacolarizzazione e la personalizzazione delle indagini. Inoltre si otterrebbe l'auspicabile effetto di avere magistrati magari meno famosi, ma più equilibrati e imparziali, e arginando il deprecabile fenomeno del traghettamento, meno politici animati da spirito giustizialista, dei quali l'Italia non ha affatto bisogno. Giuseppe da Siracusa. Un tempo si diceva: anno nuovo, vita nuova. Ma a me sembra che siamo sempre qui con i problemi vecchi. Riguardo al problema sanità, io credo sinceramente che i medici italiani siano tra i migliori al mondo, escluse le solite eccezioni sempre presenti. Il problema sono le strutture e i servizi, ma in fondo sempre di sanità si tratta. Vi riporto a titolo di informazione una piccola esperienza personale recentissima. Dal 28 al 31 dicembre ho dovuto ricoverare e assistere un familiare nel reparto di pneumologia del Policlinico di Modena. E non sto parlando quindi di Foggia o Napoli. I letti erano tutti occupati e con molti casi abbastanza gravi, quindi potremmo definirlo un periodo di punta. Ebbene, non ho mai visto fare un accenno di pulizia nel reparto. In una situazione così affollata non sarebbe logico pretendere che si pulisca il reparto almeno una volta a settimana. Va bene che c'erano di mezzo le feste, le ferie, le settimane bianche, lo shopping, i cenoni, eccetera. Ma non esageriamo. Quando si sceglie di operare nella sanità, si dovrebbe sapere con cosa si ha a che fare. Inoltre, la notte erano presenti due soli infermieri che, poveretti, correvano come potevano, ma non erano in grado di far fronte alle necessità degli ammalati. Per cui alcuni, come mio cognato, non hanno visto nessuno, nonostante le nostre ripetute raccomandazioni, per un minimo di controllo notturno. Al di là del caso particolare, è la situazione generale che mi interessa sottoporre. Nei periodi di festa i reparti si sguarniscono, Peccato però che le malattie e i malati non vadano in ferie. Se così fosse, avremmo risolto il problema. Non basta avere dei bravissimi medici se il sistema fa acqua. E non bastano neppure le grandi strutture ospedaliere che abbiamo voluto realizzare in questi ultimi anni per garantire i servizi a basso costo. Infatti i costi non sono scesi, i servizi non sono garantiti e gli ammalati sono diventati dei numeri e non delle persone in un letto di ospedale. Un tempo esistevano, soprattutto in provincia, ospedali di piccole o medie dimensioni in cui l'attenzione al paziente era decisamente maggiore. Abbiamo fatto una scelta di grande, è bello ed economico, senza ottenere i risultati cercati e dimenticando il lato umano della sanità. Come diceva Bartali, l'è tutto da rifare. Mario. Caro Fabi, cosa ne pensa del seguente slogan? Anno nuovo, PD vecchio. Da elettore, credo che in Puglia stiamo facendo la solita figura da intrallazzoni indecisi. E stavolta anche a scapito di un uomo che merita un grosso rispetto, un politico che è stato definito l'ultimo comunista che è riuscito a vincere qualcosa. Sì, un comunista, tra i pochi che non si vergogna di esserlo e che ammette gli errori, ma afferma anche che comunista non è solo Gulag, Stalin o Pol Pot, sottolineando che rimanere aggrappati a certi stereotipi ci si ammuffisce. E io aggiungo anche ci si azzera, anima e corpo. A mio parere Bersani ha ragione se vuole spostare il PD verso sinistra. Rimanere al centro ci obbligherebbe, come sta già accadendo, a sottostare a partiti come l'UDC. Insomma, credo che sia 100 volte meglio avere come alleato un comunista intelligente che qualche democristiano impenitente. Credo che sostenere Vendola nel tempo pagherà e darà i suoi frutti. E credo anche che assieme a quest'uomo potremo ritrovare un'identità di sinistra. Quell'identità che, sempre a mio modesto parere, a molti elettori manca. Rudy. Cara Radio 24, da diverse settimane ascoltandovi alla radio sento ripetere frequentemente un'anonima tiritera che riguarda i rapporti interreligiosi, della quale non riesco a capire bene il senso. Primo, a chi è rivolto il messaggio? Secondo, voi dite, si può criticare un musulmano che si comporta male, ma non esaminate la possibilità che un musulmano si comporti in una maniera un poco meno civile, vedasi il massacro di 9 cristiani l'altro giorno in Egitto a Nag Hammadi. Cristiani la cui sola colpa era quella di aver partecipato ad una funzione religiosa. Per non parlare del mancato attentato terroristico sull'aereo della Delta Airlines in volo da Amsterdam verso gli Stati Uniti il 25 dicembre scorso. E questo per limitarmi agli eventi degli ultimi giorni. Ma poi chi vi ascolta dovrebbe sapere e conoscere chi è quel giacobino che vorrebbe mandare in galera non si sa bene chi, perché vorrei avere sempre la coscienza a posto, gradirei sapere se sono nella lista di coloro destinati alla galera o se potrò usufruire della clemenza di qualcuno nel caso fossi rea di qualche malefatta. Stefania. Direttore, si parla spesso, anche alla vostra radio, del problema dei giovani ricercatori italiani che vanno all'estero per fare carriera. Ma allora perché l'Italia non introduce una tassa su questi emigranti, almeno per far pagare loro quello che lo Stato ha speso, e non è poco, per l'istruzione e per tutti i servizi collegati? Non mi sembra giusto che l'Italia paghi la formazione di conoscenze e di professionalità che poi vengono utilizzate per la crescita economica di altri paesi come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna. Alessia. Cara Alessia, la sua proposta è indubbiamente una logica, ma anche un grosso limite. È vero che chi va all'estero sfrutta l'esperienza di studio che l'Italia ha finanziato fino all'università, Ma a questo punto una nuova tassa sarebbe di difficile applicazione, proprio perché chi dovrebbe pagarla si è trasferito all'estero. E per di più, una tassa di questo tipo potrebbe costituire un deterrente che frenerebbe inevitabilmente la possibilità di rientro in Italia di questi stessi ricercatori. Per problemi come questo, nuove tasse non solo non risolvono, ma aggravano i problemi. Molto meglio lavorare perché l'Italia convinca nei fatti i giovani a restare, rinforzando gli investimenti nel sistema dell'educazione superiore, e possa diventare la stessa Italia un polo di attrazione anche per i giovani degli altri paesi. Abbiamo un grande bisogno della creatività dei giovani talenti. Pensiamo più a premiarli che non a imporre nuovi balzelli. Scrivo a proposito del caso Balotelli. Io a vedere Chievo-Inter c'ero andato l'anno scorso. Era la prima volta che andavo in quello stadio e sono rimasto stupito conoscendo la fama dei tifosi del Chievo. Lo sanno anche i sassi che Verona è una città purtroppo razzista e il sindaco con i suoi precedenti farebbe bene a stare zitto. Temo che qualcuno di loro si sia infiltrato nella tifoseria. Ricordo gli ululati vergognosi che ci sono stati dal primo all'ultimo minuto. Quest'anno non c'ero, ma dalla TV si sono sentiti chiaramente i buh sin dall'inizio della partita. Altro che risposta alle provocazioni. Balotelli è un ragazzo problematico e ha molti difetti, ma non possiamo nasconderci dietro questo e fare finta di niente. Parliamo di un ragazzo che è stato insultato a Bordeaux durante una partita fra Juventus e i francesi. E durante la partita Juventus-Sampdoria sono apparsi anche striscioni vergognosi. Piaccia o no, questo è razzismo. E non si venga a fare il confronto con Muntari, Vieira, eccetera, che tra l'altro ne avrebbero anche loro da raccontare. La cosa che non piace agli intolleranti è che Balotelli sia italiano. Tra l'altro Balotelli, nelle sue esternazioni, ha parlato di pubblico, non della città. Meglio avrebbe fatto a circoscrivere le sue parole solo a chi insultava, ma era del tutto palese e solo a chi non vuol capire non era chiaro. Antonio. Cara Radio 24, perché in televisione i politici parlano di tutto, ma mai degli operai e pensionati di basso profilo? Una volta votavamo Rifondazione Comunista, ma poi il governo Prodi, con i suoi due sindacalisti alla Camera, si è dimenticato degli operai e dei pensionati e, per paura dell'invasione degli extracomunitari, alla fine i voti sono andati alla Lega Nord. Ma anche questo governo ha detto ciao agli operai e ai pensionati. IRPEF da Roma, IRPEF dalla Regione e IRPEF dal Comune. Ma la Lega dov'è? Forse con la sua Roma ladrona? Tu, Radio 24, con le tue antenne, fatti un giro qui nella zona di Cesena e Rimini. Vedrai in campagna grandi ville, auto di lusso e fuoristrada da fare paura, in barba al risparmio energetico e all'inquinamento, con tanti operai extracomunitari che arrivano qui portando mogli, genitori e suoceri e vogliono tutti un lavoro e la casa. La fratellanza va bene, ma se non ce n'è nemmeno per noi, cosa dobbiamo fare? Purtroppo tutti i politici se ne fregano, perché non hanno certi problemi. Così pure chi portava soldi all'estero e i loro parenti e complici. Anch'io potrei fare discorsi saggi, pieni di amore. Potrei dire, politici, non litigate. Cercate con armonia di risolvere i problemi, dato che siamo tutti fratelli. Ma io, con tutto il rispetto, non sono né capo dello Stato né vescovo. Io punterei il dito. Io non ho studiato. E per questo chiedo scusa per le mie semplici espressioni e parole. In fede, Vittorio. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.